Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Salva Danaio, benvenuti alla nostra trasmissione da Deborah Rosciani. Di cosa parliamo questa mattina? Il tema previdenziale, perché quest'anno tornerà prepotentemente in primo piano. Ieri il ministro del welfare Sacconi ha detto che il governo sta facendo un'operazione di razionalizzazione fra gli enti di previdenza, ha confermato che si andrà avanti con l'intervento per adeguare, per alzare l'età pensionistica delle donne, come ci viene sollecitato dall'Europa, anche se al momento l'intervento riguarderà solamente il pubblico impiego. E Sacconi ha confermato anche che ci sarà la revisione dei coefficienti di trasformazione a partire dal 1 gennaio. Cosa significa tutto questo? Stamattina cercheremo di capirlo, faremo un punto su queste novità, ma in particolare ci soffermeremo sul tema della previdenza complementare, perché molti lavoratori stanno facendo il bilancio dell'andamento del proprio fondo pensione o del proprio piano previdenziale individuale sottoscritto in virtù della riforma del trattamento di fine rapporto che è entrata in vigore 2 anni fa, e inevitabilmente questi primi bilanci sono negativi dato ciò che è accaduto sui mercati. Ma allora, prendendo naturalmente come spunto l'andamento di mercato, cercheremo stamattina di fare anche un'analisi più generale sull'approccio verso la previdenza integrativa. Il nostro e il vostro filo diretto sarà con Alberto Brambilla, presidente del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, un organo del Ministero del Welfare. Brambilla è anche docente di economia alla previdenza, di economia della previdenza alla Cattolica di Milano, ma soprattutto è l'estensore della riforma del TFR, per cui chi più di lui potrà darci una mano a capire qual è a questo punto la prospettiva, anche per chi non ha ancora fatto una scelta, perché molti l'hanno rinviata negli ultimi 2 anni cercando di capire meglio la dinamica del funzionamento appunto degli strumenti di previdenza complementare, e quindi per coloro che hanno congelato la decisione, a questo punto che cosa è bene fare. 800 24 00 24, come sempre il numero verde a vostra disposizione per le vostre domande, per i vostri interventi, se volete anche semplicemente per le vostre considerazioni sul tema di questa mattina. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. La borsa oggi è piuttosto brillante, piuttosto positiva. Ci sono dei rialzi nell'ordine del 2,37% a Parigi, del 2,65% a Francoforte, Londra +1,48%, Milano +2,41%, grazie al volo che stanno compiendo, letteralmente parlando, i titoli del settore bancario. Unicredit +7%, Popolare di Milano +5,64%, Intesa San Paolo +5,43%, Banco Popolare +5,12%, Monte dei Paschi +5,18%, per cui tutti sicuramente bene. Un po' meno bene oggi in borsa le cose vanno per ST Microelectronics, -0,46% in borsa. In realtà in avvio il titolo perdeva quasi 2 punti, poi ha recuperato. Cosa succede alla società? Ce lo racconta in diretta da Parigi questa mattina la nostra Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Deborah e a tutti gli ascoltatori. Allora, è in corso la presentazione dei dati del quarto trimestre e anche della chiusura del 2008 per ST Microelectronics, una presentazione un po' cupa, come anche del resto del tempo qui questa mattina a Parigi. Il quarto trimestre è stato molto difficile, ricavi netti poco sopra i 2 miliardi, un risultato che comunque era stato già previsto dalla società a novembre, quando le stime erano state riviste al ribasso. 3 i fattori che hanno giocato contro: ovviamente la crisi partita dagli Stati Uniti, quindi una crisi della domanda, il cambio con un dollaro debole che quindi ha sfavorito la società, e poi la crisi del credito. Il 2008 ha visto perdite nette a 786 milioni di dollari contro i 477 del 2007 e dei ricavi in lieve calo rispetto all'anno precedente. Il punto è che per il 2009 sono previsti risparmi per 700 milioni di dollari e un taglio di 4.500 posti in tutto il mondo, oltre a un calo del mercato tra il 25 e il 30%. Comunque sia, qui si ha fiducia per il futuro, si prevede di riuscire a mantenere la quota di mercato, se non ampliarla, che è un po' oltre il 6% a livello mondiale. Ci faremo spiegare tra poco, dove si concentreranno questi 700 milioni di risparmi e soprattutto il taglio dei posti di lavoro. E infatti credo che tu abbia in programma un'intervista con l'amministratore delegato, giusto Valeria, tra qualche minuto? Sì, tra pochissimo. Va bene, allora ti lasciamo, buon lavoro, grazie per essere stata con noi. Valeria De Rosa tornerà nelle prossime trasmissioni, in particolar modo sicuramente a Focus Economia per il bilancio dei conti di ST Microelectronics, un colosso internazionale mondiale dei microchip, e quindi insomma sicuramente la tendenza di questa società ci può dire come può essere il mercato di riferimento complessivamente, come potrà essere per il 2009, un anno che si annuncia nero per molti versanti. Oggi tra l'altro, come sapete, c'è anche il famoso tavolo a Palazzo Chigi per studiare interventi a sostegno dell'auto, per cui i fronti aperti sono molteplici. Direi però di lasciare la borsa, perché anche il versante pensionistico è un cantiere sempre aperto. Buongiorno e grazie di essere con noi alla professora Alberto Brambilla, presidente del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale nel nostro paese. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, io l'ho tra l'altro così un po' definita con molte cariche, oltre a questo incarico che ha da qualche mese al Ministero del Welfare. Lei è stato più spesso ospite di Salvadanaio, soprattutto quando 2 anni fa abbiamo, per non so quante puntate, almeno 100 ne avremo fatte, parlato appunto della riforma del TFR, e abbiamo concentrato il nostro raggio d'azione soprattutto nel famoso semestre da gennaio a giugno 2007, quando molti lavoratori italiani erano chiamati a compiere la famosa scelta, quella se destinare il proprio trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare. Da allora è passato molto tempo, molti lavoratori hanno congelato la propria decisione, molti l'hanno fatta, e tra questi che l'hanno fatta ovviamente molti adesso stanno guardando anche al bilancio di quella scelta che hanno fatto. Ovviamente il bilancio non può che essere negativo dato quello che è successo nei mercati negli ultimi tempi, però cercheremo di capire se l'approccio alla previdenza complementare deve guardare solo a questo o se in qualche maniera possiamo anche accantonare il bilancio dal punto di vista numerico e così fare delle valutazioni delle nostre scelte previdenziali per il futuro, anche cercando di ragionare proprio nell'ottica di lungo periodo e guardare anche ad altri aspetti. I temi di cui dobbiamo parlare sono molti, vi faccio ascoltare subito la nostra scheda, poi magari facciamo subito intervenire anche alcuni ascoltatori che vedo già pronti al nostro numero verde. Ci sono anche le altre novità di cui parlare che potrebbero arrivare quest'anno e intorno alle quali il professor Brambilla ci aiuterà a far luce. Intanto bilancio 2008 dei fondi pensione. Il 2008 per la previdenza è stato sicuramente un anno da dimenticare. La crisi economico-finanziaria non ha infatti risparmiato casse previdenziali e fondi pensione, che in modo diverso sono stati colpiti duramente. Secondo i dati della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, l'anno appena trascorso ha fatto registrare perdite medie per i fondi di nuova istituzione, negoziali e aperti, dell'8,4%. A subire il crollo maggiore sono stati i comparti azionari, con una flessione del 24,5%. Un po' meglio hanno fatto i fondi bilanciati, ma gli unici positivi sono stati i fondi obbligazionari, che hanno guadagnato tra l'1,6 e il 4,9%, contro il più 3,4% di chi ha deciso di lasciare il proprio TFR in azienda. Ma i dati italiani non sono certo i peggiori. Negli Stati Uniti i 109 fondi pensioni statali hanno perso nel 2008 il 37% del patrimonio, superando gli 865 miliardi di dollari di passivo. E anche in Europa le performance sono state complessivamente molto deludenti. Questi dati certo non aiutano un settore, quello della previdenza complementare, che nel nostro paese fa ancora molta fatica a conquistare i lavoratori. Per scongiurare il rischio di vedere andare in fumo la propria assicurazione sul futuro, da più parti si chiede uno sforzo di trasparenza, che includa, ad esempio, una comunicazione dettagliata sugli investimenti fatti. Ma il problema dei controlli riguarda anche le casse previdenziali dei professionisti, che ora potrebbero essere sottoposte a una nuova regolamentazione più rigida di quella attuale. Secondo gli esperti, tuttavia, con gli scenari che si prospettano per il sistema pensionistico pubblico, affidarsi alla previdenza complementare sarà sempre di più una scelta obbligata e, a conti fatti, con un'ottica di lungo periodo, investire oggi potrebbe risultare una scelta opportuna. anche se non molti sono convinti di questo. Allora, Marco D'Ascoli Piceno e Giovanni da Varese sono già due ascoltatori pronti ad intervenire. Professor Brambilla, siccome Giovanni da Varese mi ha subito, senza saperlo, rubato la prima domanda che io avrei voluto rivolgerle, la faccio fare direttamente a lui, così ci togliamo il pensiero. Giovanni, benvenuto. Giovanni, dove è finito? Pronto. Eccoci. Presente, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Volevo sottoporre al professore il mio quesito, no? Che riguarda in modo particolare il coefficiente di trasformazione dell'ultimo stipendio in pensione. Sì. Cioè, io avendo 36 anni di lavoro, sono un dipendente pubblico, lavoro in una scuola, sono un assistente di laboratorio scientifico, nei laboratori scientifici, ho 36 anni di contributi, ho 58 anni compiuti di età, no, sono qui, a me piace continuare il lavoro, queste notizie, ho paura che venga decurtato, come ha scritto domenica, e sole 24 ore, dell'8-10% con questi coefficienti. Io premetto che nel 95, come è entrato in vigore la legge Dini, avevo già più di 20 anni di contributi. Ecco, volevo chiedere al professore, andando avanti a lavorare, facendo ancora 4 anni, arrivare ai 40 anni di lavoro, rischio questa penalizzazione del 8%, come scriveva il sole 24 ore di domenica, oppure no? Oppure lei è, come dire, appartiene ad una categoria anche anagrafica teoricamente che potrebbe scamparle in qualche maniera. Professor Brambilla, io gliela cedo subito questa domanda. Allora, questo intervento che Sacconi ha annunciato e che dovrebbe essere operativo già a partire dal 1 gennaio del prossimo anno riguarderà a 360 gradi tutta la platea dei pensionandi, quelli che potranno aver diritto di andare in pensione a partire dal 1 gennaio del prossimo anno? No, assolutamente no. Allora, intanto cominciamo a dire subito che per l'ascoltatore, per Giovanni, il problema non si pone, perché addirittura il 31-12 del 95 aveva più di 18 anni di anzianità contributiva e quindi per lui vale il sistema puro retributivo, quindi di contributivo non ha nulla, e quindi coefficienti di trasformazione per lui non avranno alcun effetto. Oltretutto però, a parte il caso di Giovanni, va detto che questi coefficienti di trasformazione che entreranno in vigore il primo di gennaio dell'anno 21 e che prevedono una decurtazione, ma attenzione, è una decurtazione dovuta all'aumento della speranza di vita, cioè il punto è questo: se io prima percepivo dallo Stato 100 e lo percepivo in, supponiamo, 15 anni, perché tale era la speranza di vita al momento del pensionamento, io continuerò a percepire 100, ma poiché la mia speranza di vita è 18, ed è esattamente circa 3 anni l'aumento della speranza di vita rilevato da Istat e da noi tra il 92, quando vennero costruiti i primi coefficienti di trasformazione, e il 2005, quando abbiamo fatto il calcolo, quindi 3 anni, il soggetto continuerà a prendere 100. Ma lo spalma su un numero più ampio di anni, esattamente, inevitabilmente. Esattamente. Ultimo punto: per i coefficienti di trasformazione va anche detto che varranno per circa il 2% delle pensioni in pagamento a partire dal 2010. Per arrivare a circa una metà di pensioni dovremmo arrivare al 2035, quindi diciamo che il 98, di coloro che andranno in pensione l'anno 21 e nei successivi anni non saranno toccati, verranno toccati soltanto coloro che avevano meno di 18 anni di anzianità contributiva nel 95, per cui il primo pezzo era retributivo, il secondo contributivo, e tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dall'1/1/96. In ogni caso è un tema sicuramente in piena evoluzione, avremo un sacco di settimane di tempo ancora per poter riparlarne di nuovo e chiarire tutti i termini della questione. Un'altra novità che potrebbe arrivare a breve, professor Brambilla, riguarda invece l'innalzamento dell'età pensionistica delle donne, un tema che al momento si pone solo per il settore pubblico. In ogni caso l'Europa ci chiede di adeguarci agli standard europei. E anche questo è un problema, diciamo che a livello di paesi OCSE, di paesi industrializzati, oltre una metà di questi paesi ha già i 65 anni per entrambi i sessi, per quanto riguarda il nostro paese, il problema oggi si pone un po' meno con il metodo di calcolo retributivo, perché la pensione è calcolata con un coefficiente del 2% sulla base degli ultimi 10 anni, per cui l'età di pensionamento, per essere molto semplici, è assolutamente, diciamo, inconsistente nel calcolo, è ininfluente. Si porrà invece molto di più quando comincerà a entrare in funzione il contributivo, perché lei capisce che una signora che è obbligata ad andare a 60 anni anziché 65 come un uomo prenderà una pensione di natura contributiva che sarà un bel 15% meno dell'uomo. Ecco lì il problema della Comunità Europea. Certamente noi poi dovremmo fare tutta una serie di aggiustamenti. Una proposta, per esempio, che c'era in corso era quella di portare tutti a 65 anni, ma di riconoscere alle donne che hanno avuto figli un anno circa, e adesso largo circa, di sgravio fino a un massimo di 3 figli, e quindi dare un abbuono tra i 3 e i 4 anni per coloro che avessero avuto praticamente carichi di famiglia e figli. Però sono tutte proposte che dovranno essere valutate nel prossimo futuro, ma una cosa è certa: costringere le donne ad andare in pensione a 60 anni con il metodo contributivo significa quantomeno costringerle a prendere una pensione a parità di anni di contribuzione nettamente più bassa. Chiarissimo. E con queste due domande, insomma, abbiamo così chiarito anche i punti sui temi che sono in questo momento alla ribalta della cronaca. Quello che però vogliamo affrontare questa mattina è invece il tema della previdenza complementare. Peraltro Mimmo, un ascoltatore al 349-238-6666, così cogliendo il fatto che uso spesso un termine al posto dell'altro, ci chiede qual è la differenza fra la previdenza complementare e quella integrativa. Nessuna, Mimmo, stiamo parlando esattamente della stessa cosa, qualcosa che andrà ad integrare la nostra pensione pubblica del futuro e uno strumento appunto che va a complementarla, mi passi questo termine. Però magari anche sulla distinzione di terminologia ci torneremo con Brambilla fra poco. E tra l'altro tra poco dobbiamo chiudere il primo blocco di Salvadanaio. Allora facciamo una cosa, faccio intervenire anche Marco da Ascoli Piceno, con il quale invece introduco il tema dei fondi pensione, bilancio 2008 e le scelte che possono anche essere fatte in un momento abbastanza complicato come questo. Marco, benvenuto a Salvadanaio, ci dica tutto. Buongiorno. Io premetto, a me per la pensione anche da più di 10 anni sicuramente, nel fondo integrativo aderito c'erano 3 opzioni: prudente, bilanciato e dinamico. Sì, multicomparte. Lei, Marco, mi scusi, ha un fondo di categoria oppure ha scelto un fondo aperto? Sì, categoria. Che categoria ha? Legno. Sì. Praticamente a ottobre ho fatto la richiesta, ho compilato il modulo per passare da prudente a dinamico. Ho paura di aver fatto una stupidaggine. Ecco, la domanda mia era questa. Cioè, l'ho fatta, è una bella domanda questa, Marco, lei ci assegna una grande responsabilità. Allora, però è un approccio interessante il suo, perché comunque cogliendo anche la discesa dei mercati lei dice comunque si è posizionato su una linea più aggressiva. Come facciamo a fare una valutazione anche delle nostre scelte? Questo è un tema molto bello, molto interessante. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. La crisi del sistema finanziario internazionale, lo sapete bene, ha avuto evidenti ripercussioni a 360 gradi anche sui rendimenti dei fondi pensione italiani. Dai dati che ha diffuso in questi giorni la COVIP, l'organismo di vigilanza sui fondi pensione, e sono dati riferiti comunque al mese di ottobre 2008, emerge che per la prima volta dalla crisi del 2002, un'altra bolla speculativa, una crisi di altra natura, i rendimenti dei fondi sono inferiori alla rivalutazione del trattamento di fine rapporto. E dunque, per chi ha compiuto la scelta della previdenza complementare, adesso è tempo di bilanci: ho fatto la scelta giusta, ho fatto la scelta sbagliata? È normale interrogarsi su questo. Allora noi questa mattina stiamo girando i vostri interrogativi a chi la riforma del TFR materialmente e concretamente l'ha scritta. Alberto Brambilla, oggi presidente del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale. Professor Brambilla, abbiamo sentito il caso di Marco da Ascoli, che non solo non si è lasciato intimorire da quello che stava accadendo sui mercati, ma addirittura ad ottobre ha fatto una scelta che per il momento poteva anche essere un po' considerata controcorrente: ha spostato la sua linea di investimento da una prudente ad una un po' più dinamica, aggressiva. Lui oggi si interroga, dice: ho fatto bene, ho fatto una sciocchezza? A chi si può rivolgere anche il nostro ascoltatore per poter così fare un po' un esame della sua situazione e rassicurarlo magari? Guardi, allora capire la dimensione, la profondità di questa crisi e verificare che cosa succede in futuro diventa una cosa complicata. Questa mattina presto stavo vedendo gli indici di fiducia rilevati in Italia, in Francia e in Germania, e il cronista finiva con la frase, diceva: questi indici di fiducia sono aumentati molto di più di quanto prevedevano gli economisti. Allora tutti noi che ci occupiamo un po' di economia effettivamente in questo momento dovremmo lavorare più sul buon senso. Per rispondere a Marco, intanto noi abbiamo inserito nella norma la possibilità di splittare il contributo, vuol dire che per esempio il TFR sarebbe una bella cosa che rimanesse nella linea prudente ed eventualmente una parte del contributo del lavoratore e del datore può andare, direi, nella linea bilanciata. Nell'azionaria sarei molto più prudente, anche perché, se ho capito bene, al lavoratore, a Marco, mancano dieci anni, sì. Quindi a questo punto, nel percorso vita sul quale si sta un po' ragionando, a 10 anni, tenuto conto di quello che sta succedendo, meglio avere una linea prudente o una linea che riflette un po' il rendimento del TFR e che quindi consolida i risultati, piuttosto che rischiare tutto. Eventualmente, siccome poi i contributi vengono versati a livello mensile, quindi è un PAC a tutti gli effetti, una parte del contributo datore o lavoratore può essere messa nel fondo bilanciato, ma va tenuto presente che appena i mercati rimbalzano occorre mettersi in sicurezza. Cioè, il problema vero dei fondi pensione americani e di altri fondi pensione è il momento dell'uscita, mentre in un sistema pubblico, comunque vada, la prestazione risente molto meno dell'andamento dei mercati. Nei sistemi di previdenza complementare lo capiamo tutti, supponiamo che uno ha fatto 20 anni nell'azionaria, gli tocca andare in pensione proprio nel mese di febbraio del 2009, la sua prestazione come minimo è ridotta del 30%, allora noi non possiamo correre il rischio di questa riduzione. Quindi, in mancanza di proiezioni che non ci sono sotto il profilo economico, la linea prudente o comunque le linee, per dire, quelle dei FIP, che sono legate alle gestioni separate, che quindi danno dei rendimenti molto poco volatili, sono forse quelle da preferire. Ecco, però lei diceva anche una cosa molto importante, anche, no, che deve essere assolutamente tenuta in considerazione nel momento in cui dobbiamo compiere una scelta di questo tipo, cioè scegliere lo strumento di previdenza complementare che si sposa meglio con le nostre caratteristiche. Quanti anni ci mancano ad andare in pensione? La discriminante per Marco è fondamentale, quella di 10 anni nella sua scelta. Assolutamente, assolutamente, perché per dire, un soggetto che avesse avuto delle buone performance sui mercati azionari, io ripeto, io sono sempre stato abbastanza contrario alle linee azionarie. Quando ho una linea bilanciata 80-20 o 70-30, storicamente negli ultimi 15 anni sono quelle che hanno performato meglio rispetto alle linee che hanno il Morgan Stanley Capital International come indice, quindi 100% azionarie. Quindi già vediamo che tra i 10 e i 15 anni gli indicatori più buoni sono il PIL e l'indice dei titoli obbligazionari, o al massimo dei titoli 25 azionario e 75 obbligazionario. Quindi già sono un po' nemico sull'azionaria pura. Detto questo, occorre, quando uno gli mancano 5-6 anni di anzianità contributiva, fare una gestione che è anche 50% azionario e 50% obbligazionario è già un rischio. Corre il rischio che in presenza di eventi imprevedibili, come nei fatti alcuni sono successi in questi ultimi mesi, corre il rischio di non poter prendere la prestazione, perché molti di quelli che oggi dovrebbero avere diritto alla prestazione previdenziale, fortunatamente noi nella legge abbiamo previsto che possono differire i termini, quindi non richiederla subito, oppure B, possono addirittura ancora versare, oppure C, possono splittare in funzione del loro contributo nuovo tra più linee. Per cui noi abbiamo cercato di creare dei paracaduti, però insomma anche un po' di prudenza non fa male. Professor Brambilla, lo sa che io l'ho avuta diverse volte ospite a Salvadanaio, è la prima volta che la sento esprimere con grande chiarezza questa, come dire, contrarietà alla linea azionaria dell'investimento, appunto, del fondo pensione. Lo è sempre stato, o in questo momento ha maturato con più convinzione, a luce di quello accaduto, questa opinione? Allora, sul 100% azionario lo sono sempre stato, anche perché andando a analizzare bene i dati dei vari indici, storicamente, almeno negli ultimi 13-15 anni, 70-30 ha performato di più di un 100% azionario, con un profilo di rischio inferiore e una volatilità inferiore. Per cui lo ero abbastanza da sempre convinto, tant'è che quando alla discussione alla Commissione Lavoro della Camera e del Senato si era previsto per i silenti di predisporre una linea il più prudente possibile, io avevo preso subito la parola al balzo e infatti l'abbiamo scritto. Ovviamente anche questi eventi hanno ulteriormente reso più prudente la posizione, ma soprattutto perché in alcuni paesi come l'Olanda ci sono un sacco di persone che in questo momento vanno a fine, diciamo, contribuzione e si trovano in una condizione che è tipo quella dei fondi pensioni interni americani, cioè Ford e General Motors hanno il circa 50% del loro bilancio, del loro patrimonio, sono fondi interni, fortunatamente noi non li abbiamo più, e oggi andare in pensione per queste persone è un problema, quindi hanno un problema di posto di lavoro, un problema di sicurezza futura e oltretutto un problema di non poter prendere i soldi perché erano investiti oltre il 50% con l'azionario e quindi si trovano in queste condizioni. Quindi ho sempre avuto questa prudenza, oggi poi queste prove me la ridanno di più perché sulla pensione non si può scherzare. No, infatti. Allora, sentiamo intanto gli altri interrogativi anche da parte dei nostri ascoltatori, poi magari su questi punti che ritengo estremamente interessanti ci ritorniamo, perché a questo punto, visto che in ogni caso queste linee di investimento nel fondo pensione chiuso, nel fondo pensione aperto, nei piani individuali previdenziali ci sono, bisognerà capire anche a chi si adattano allora, no? Se sono da escludere completamente. Leonardo da Firenze ci aspetta da un po', benvenuto. Sì, buongiorno. Senta, io ho avuto un'esperienza con un fondo pensione integrativo, io sono libero professionista, non sono dipendente, sì. Però insomma questo fondo pensione era fatto anche per i dipendenti. E praticamente ti assicuravano la cifra, tutto, se non arrivava alla fine dei pagamenti, all'anno di pensione, ti rendevano tutto quello che c'era. Io feci una semplice domanda e dissi: ma la reversibilità che c'è nella pensione, che si paga tutti con i contributi, dice, nelle polizze integrative, nelle pensioni integrative c'è? E non mi fu data risposta, al che praticamente era come dire: o io muoio prima di arrivare alla pensione riprendo tutto il capitale, oppure devo sperare di campare fino a 120 anni per riprendere il capitale. E questo è un problema prettamente puro per le compagnie assicurative che pongono. Sì. Poi io volevo fare anche una domanda. Io ora ho ascoltato il signor Brambilla, che è molto chiaro fino a un certo punto per chi lavora in borsa, cioè, ma una persona che lavora un lavoro, mettiamo, non lo so, un carrozziere, chi vuole lei, che non ha una cultura medio superiore, come fa a capire, cioè, come fa a dare fiducia in un mercato come quello di ora, che purtroppo, che cosa è successo alla finanza? Cioè, mezzo mondo è tutto indebitato perché si doveva fare il consumismo, cioè, le previsioni non sono certe che a breve scadenza il mercato finanziario si possa riprendere. E che faccio io? Leonardo, quanto devo campare per poter vedere frutti? Leonardo, io ho capito perfettamente quello che lei ci sta dicendo, suddivideremo appunto la sua domanda in due punti, una di carattere molto concreto, il tema della reversibilità su alcuni prodotti di previdenza, che non è ben chiaro come funzioni o se ci sia la possibilità evidentemente di destinare la pensione qualora si passi a miglior vita magari ad un congiunto, e poi il tema invece dell'informazione. Insomma, sì, va bene, in due anni di riforma è stato fatto tanto lavoro da quando è entrata questa in vigore, però ancora c'è molto scetticismo, anche perché i termini del funzionamento effettivamente della previdenza complementare non si capiscono. A Salvadanaio il tema dei fondi pensione questa mattina con Alberto Brambilla, presidente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale, oltre che estensore della riforma del TFR. Leonardo ci ha messo la strada tutta in salita, professor Brambilla, perché prima di andare al tema della reversibilità dei piani individuali previdenziali, credo che lui si riferisca a questo, quindi le polizze vita che dovrebbero un domani appunto integrare migliorare la nostra pensione pubblica. Lui dice, insomma, però noi ancora navighiamo un po' nell'incertezza. Come la spieghiamo tutta questa riforma che è arrivata 2 anni fa al carrozziere che di pensione non ci capisce niente? Non ha tutti i torti il nostro ascoltatore. Forse anche questo è un problema che ha provocato questo, come dire, questa falsa partenza, chiamiamolo così, per la riforma complementare nel nostro paese. Brambilla. Allora, sicuramente il tema, direi, si fa essa partenza. Diciamo questo, che per un paese relativamente giovane alla previdenza complementare come il nostro, avere circa il 22% dei 23,5 milioni di forza lavoro iscritti non è un grande risultato, ma non è neanche un risultato piccolino. Teniamo conto che nei paesi in cui la previdenza complementare è volontaria, perché la previdenza pubblica assorbe tanti contributi, quindi un lavoratore dipendente tra lui e l'azienda versano il 33% del loro reddito alla previdenza di base, e quindi ovviamente non può essere obbligatoria anche la previdenza complementare. In quei paesi dove è volontaria, anche dopo 30-40 anni non si supera il 50%, quindi insomma siamo a metà strada. Certo, c'è un problema di comunicazione. Covid ha fatto un buon lavoro con il prospetto semplificato, con le schede, e soprattutto mi rendo conto che è abbastanza magari complicato un po' guardarle, però ha fatto anche tutte le proiezioni, quindi insomma si vede, anche uno che non ha molta dimestichezza vede un pochettino come sono andati i mercati e negli ultimi 3, 5, 10 anni il tipo di rendimento che è stato fatto. Certo, è una cosa un po' complicata, ha bisogno che anche l'utente insomma si applichi un po' per cercare di capire, ma soprattutto io direi che se devo dare un consiglio, più che altro è il buon senso. Si capisce bene che più i rendimenti che vengono promessi sono alti e più c'è rischio, è ovvio, perché è come se una persona prestasse dei soldi, se li presta a una persona che è sicura che glieli dà, probabilmente non gli fa pagare nulla di interesse, ma se il rischio è alto gli fa pagare tanto interesse. Quindi, con buon senso, il fatto di utilizzare le linee, quelle di natura obbligazionaria, le linee prudenti, le linee garantite, e mettere una piccola parte nella linea bilanciata è forse la cosa migliore. Poi con la comunicazione, che sicuramente migliorerà grazie anche a programmi come questo, perché questi programmi aiutano a ragionare, anche se i tempi sono ristretti, ma sono forse, io penso, l'unico aiuto in questo momento, perché non vedo altro. No, infatti, quindi, anche perché non possiamo dare risposte a tutti, ma quantomeno sollecitare una maggiore attenzione intorno a questi argomenti. Sul tema della reversibilità invece, Brambilla, cosa rispondiamo a Leonardo? Allora, sul tema della reversibilità, molte compagnie di assicurazione, sulla scorta di quanto accade negli Stati Uniti e anche in Austria, devo dire, dove questo problema è stato abbastanza ben risolto, ci sono alcune compagnie che oggi offrono la pensione quasi piena, quindi se dovevo prendere 100 di pensione ne prendo, per dire, 95, ma garantiscono poi una reversibilità al 60% sul coniuge, oppure danno una pensione certa per 10, 15, 20 anni e poi totalmente vitalizia. Dipende dalla situazione di ogni singolo lavoratore, cioè se un lavoratore pensa di avere degli obblighi, per esempio ho un figlio che continuerà a studiare almeno per i prossimi 10 anni, a questo punto prendo la pensione, ma la voglio certa almeno per i prossimi 10 anni, perché qualsiasi cosa mi capita vada comunque a beneficio del figlio nella sua totalità. Oppure se pensa di non avere questi adempimenti di breve, ma ormai è una persona stabilizzata, non ha più problemi di figli eccetera, avrà un problema di coniuge, probabilmente preferirà avere una controassicurazione e una reversibilità. L'ultimo fatto che sta venendo fuori adesso è, io è un po' tecnico, ma supponiamo vado in pensione a 60 anni, speranza di vita media 80, avrò quindi 20 anni di pensione, faccio una controassicurazione iniziale che mi può essere prelevata anno per anno in tutti gli anni in cui io percepisco la pensione, si chiama assicurazione contro il rischio di sopravvivenza oltre la media, cioè vuol dire che se io vivo per 22 anni, ecco per dire, e quindi me la devi sempre pagare, quindi pago una pensione, un'assicurazione prima e sono sicuro che fin tanto che campo avrò questa situazione, questa pensione piena, e nel caso dovesse capitare qualcosa a me la reversibilità. Quindi diciamo che il campo delle rendite si sta molto muovendo in questo momento e quindi anche le garanzie per l'utente stanno aumentando. Benissimo. Vorrei tornare, ci mancano pochi minuti di tempo, però questo è un discorso molto interessante che è stato fatto nel corso della trasmissione, il tema comunque della gestione molto prudente della propria previdenza complementare è una lezione che ci ha impartito duramente anche la fase di mercato che stiamo attraversando. Perché vorrei tornare su questo punto? Perché c'è Sara, una nostra giovanissima ascoltatrice da Chiavari, che proprio questa mattina ci racconta è andata in banca a firmare per la sottoscrizione di un prodotto di previdenza complementare. Sara, che scelta ha fatto? Si è spaventata alla luce di quello che abbiamo detto stamattina? Salve, buongiorno. No, era da un po' che dovevo fare qualcosa, perché comunque un lavoro a tempo determinato, part time, quindi la pensione non ci sarei mai arrivata. E alla fine ho pensato di farmi questo prodotto, ho valutato, visto che io ho il conto in banca, l'ho dovuto fare in banca perché alle Poste senza conto e senza garanzie di contratti non me lo fanno. E niente, la cifra che verso è 100 euro al mese, quindi non è comunque tanto, però il direttore, la persona con cui ho parlato, consigliava, visto che mancano tanti anni alla pensione, un rischio un po' più alto. Io avrei puntato sinceramente sul rischio zero, poi alla fine siamo arrivati a una via di mezzo. Sara, certo, lei quindi ha preso un fondo pensione in banca, sarà un fondo pensione aperto, immagino adesso senza stare ad indagare, però sì, non è di categoria. L'approccio è questo, insomma, un profilo di investimento, una linea di investimento probabilmente aggressiva, perché a Sara, dice il direttore di banca, mancano ancora diversi anni di versamento. Tra l'altro è partita con 100 euro al mese, non sottovalutiamo per niente questa cifra, Sara, che mi sembra assolutamente di tutto rispetto. Brambilla. Beh, direi che si è iniziato adesso a lavorare una linea bilanciata, tutto sommato, soprattutto in questi momenti, va bene. Ecco, se poi l'augurio che facciamo a Sara è che il suo tempo determinato diventi tempo indeterminato o comunque una professione molto più stabilizzata, dovesse avere anche qualche altro versamento, consiglierei una parte sempre di metterla sul prudente, quantomeno se dovesse avere una quota di TFR la metterei lì. Mi premeva dire una cosa, se posso. Fondi pensione, al di là adesso dei rendimenti che comunque hanno inciso pesantemente sulla posizione pensionistica di ognuno, dobbiamo sempre tenere presente due cose. La prima, che i tassi di sostituzione, cioè le pensioni che fornirà il sistema pubblico, saranno pensioni che non sono bassissime come qualcuno dice, ma saranno pari a circa il 50-60% dell'ultimo reddito. Quindi abbiamo bisogno di integrarlo. Due, il fisco ha fatto la sua parte, perché siamo il paese che ha un'agevolazione fiscale molto molto buona, perché sui 5.164 euro c'è l'esenzione totale e alla fine io pagherò un'imposta che andrà tra il 9 e il 15%. Quindi anche nel fare i conti della redditività dobbiamo sempre tenere presente che questi quattrini almeno sono stati versati con un'esenzione minima che va tra il 23, che è la lista quota minima, e il 35-37%, poi c'è qualcuno che arriva anche al 45%. Secondo, che comunque quando percepiremo il nostro TFR non sarà assoggettato a tassazione separata, ma soltanto tra il 9 e il 15%, e quindi anche in fase di erogazione delle prestazioni avremo dei vantaggi. È una consolazione magari non eccelsa, però insomma, se uno ha perso sostanzialmente il 30% perché l'ha messo in un fondo azionario, un po' di consolazione è che dal punto di vista fiscale qualche cosa riesce e riuscirà a recuperare. Brambilla, io la ringrazio molto per essere stato con noi. Tra l'altro, su questi due ultimi aspetti sono contenta che siamo riusciti ad affrontarli, perché c'erano due domande proprio di due ascoltatori che volevano intervenire in questo ambito. Massimo da Monza e Freddy da Varese, che non riusciamo a far intervenire. Però siccome noi necessariamente ritorneremo su questi argomenti, speriamo di poterlo fare al più presto, magari di nuovo con lei. Grazie molte e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Salve, noi grazie. Ci lasciamo, Salva Danaio torna domani, noi tra l'altro domani ci rioccuperemo di Telefisco, avete sentito oggi in corso il Radio Deno e domani torneremo su tutto ciò che è emerso magari da questa giornata e soprattutto cercheremo di capire invece come si devono approcciare i contribuenti italiani alla dichiarazione dei redditi quest'anno. Grazie a Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione e anche a Gaia Romani, a Peter Bescapè per l'assistenza tecnica, noi ci ritroviamo domani, buona giornata a tutti. We'll be right back.